Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, bentornati a Smart City. Nella puntata di ieri sera abbiamo visto come la diffusione della banda ultralarga possa giovarsi di una serie di infrastrutture esistenti per farsi dare, diciamo così, un passaggio. Infatti, se ricorrendo a uno scavo tradizionale la posa di una fibra ottica costa circa 70 euro al metro lineare, questo costo scende sensibilmente se si sfruttano tubature già esistenti o tecnologie come la mini trincea, ma soprattutto quando la fibra ottica corre sfruttando l'infrastruttura di pali aerei come quelli della rete elettrica. In questi casi i costi stimati a partire dal progetto Zero Digital Divide, che ha coinvolto 27 comuni della regione Lombardia, questi costi si riducono a meno di un quarto o un quinto. Questi dati ci aiutano a capire anche alcuni retroscena della partita sulla banda larga che si sta giocando in questi mesi tra operatori telefonici e operatori, per esempio, della rete elettrica, ma anche come il confine tra area fallimento di mercato e aree dove invece la domanda di connettività è sufficiente ad attirare gli operatori delle telecomunicazioni sia in realtà un confine, una linea diciamo sfumata. Ma diamo il benvenuto al nostro ospite che torna a trovarci questa sera, Mauro Fasano, dirigente unità operativa energia e reti tecnologiche della regione Lombardia. Mauro Fasano, che ha anche coordinato questo progetto Zero Digital Divide. Bentornato Fasano. Grazie ancora, buonasera. Come prima cosa le chiedo, queste infrastrutture che appunto potrebbero potenzialmente ospitare la fibra ottica riducendo i costi di infrastrutturazione, le conosciamo? Fino a che punto le conosciamo? Le conosciamo poco, non ne conosciamo tanto. In realtà ci vorrebbe un catasto del sottosuolo che la Regione Lombardia ha già adottato con legge del 2012 e ci vorrebbe insomma che questo catasto sia popolato con dati sempre più precisi e sempre più stringenti. In questo momento in tutta Italia purtroppo il catasto del sottosuolo, pur essendo strutturato dal punto di vista legislativo, ha ancora delle falle dal punto di vista tecnico dei dati. Ecco, uno dei problemi, credo che lo possiamo spiegare, appunto che naturalmente gli operatori considerano le informazioni di dettaglio della loro infrastruttura, della loro rete, dei dati sensibili che non vogliono rivelare per non dare informazioni ai loro concorrenti sostanzialmente. C'è questo problema, se ho capito bene. C'è molta ambiguità su dati sensibili e privativa industriale e purtroppo non abbiamo una legislazione che ci aiuta. Riescono ad opporsi all'invio e alla pubblicazione dei dati perché non abbiamo una norma certa sulla trasparenza. Si sta aspettando, sta arrivando? Speriamo che a livello nazionale ci sia, è una competenza nazionale. D'accordo. Dunque Fasano, abbiamo parlato del costo dell'infrastruttura e di come si può ridurre il costo di installazione di questa infrastruttura fisica, ma quanto pesa alla fine nel definire un'area a fallimento di mercato? La differenza vera la fa la domanda, non la fa l'offerta. Cioè, con l'offerta gli enti pubblici e gli operatori la loro parte la stanno facendo e la faranno. Ma in ogni caso, anche se ci si arriva nelle aree a fallimento di mercato e non si agisce sulla domanda, cioè non c'è un soggetto che fa un abbonamento e quindi ripaga i costi dell'infrastruttura, resterà in fallimento di mercato. Ecco, ci può dare un'idea diciamo della soglia in qualche misura che bisogna raggiungere? Guardi, noi in queste aree qui abbiamo ancora una volta dei calcoli che ci dicono che mediamente per ogni unità abitativa si spendono circa 900 euro per portare un'infrastruttura FTTH. Cioè per portarla diciamo da una cabina alla casa, alla singola abitazione. Fino all'unità abitativa. Quindi l'FTTH costa 900 euro ad unità abitativa. Quindi si figuri quando parliamo di popolazioni 9.000 abitanti significa mediamente 4.000-3.500 unità abitative, moltiplichiamo i costi e sono costi importanti. Certo. Ora, non è sufficiente, l'abbiamo portata, c'è il tubo, c'è la fibra ottica, occorre che tutta l'elettronica e tutti i costi della trasmissione dei dati e della sicurezza delle reti... Del mantenimento accesa di questa infrastruttura, questa se no resta lì spenta. Ci sono addirittura casi in cui l'infrastruttura esiste ed è spenta, se ho capito bene, no? Esattamente. Cioè, poi partono i costi della gestione ordinaria di una infrastruttura, quindi per questo dicevo non è sufficiente che l'infrastruttura ci arrivi, occorre la domanda. Ieri abbiamo fatto il caso di Tirano, un comune decisamente in area fallimento di mercato, dove sì, sono stati sfruttati i tubi del sistema di teleriscaldamento per stendere la fibra ottica, ma dove quello che ha fatto partire il progetto è che i cittadini si sono messi insieme e hanno garantito un minimo di domanda in banda ultralarga. Ecco, da questo punto di vista mi chiedo, le istituzioni possono avere un qualche ruolo nel sollecitare, diciamo, una domanda più significativa di connettività? Ma allora, in questo momento io racconto quello che penso, la pubblica amministrazione non necessariamente richiede banda, non è bandivora, cioè sì, non è la pubblica amministrazione che smuove la domanda. In realtà a Tirano c'erano le imprese, in realtà c'erano le scolaresche, in realtà a Tirano si è creata la cultura digitale e quindi si è creata una domanda in maniera spontanea, senza che la pubblica amministrazione attivi dei servizi particolari. Comunque, insomma, la banda ultralarga in queste realtà, voglio dire, un po' lontane magari dai centri nevralgici del paese, può essere un fattore di sviluppo, se poi viene raccolta la sfida, naturalmente. Assolutamente sì, è certamente un fattore di sviluppo. Ecco, mentre il rischio forse è che queste zone, se non riescono a raccogliere questa sfida, vadano ulteriormente in declino. E quindi, insomma, bisogna darsi un po' tutti da fare. Va bene, grazie Fasano. Grazie, buonasera. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a lunedì. Buon fine settimana a voi tutti.